Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera il sottotitolo di Mr. Kilowatt è particolarmente azzeccato, perché è decisamente di energia perduta che parleremo. L'energia apparentemente placida dei canali di irrigazione che le moderne tecnologie idrauliche consentono di sfruttare con sempre maggiore efficienza. È un racconto, il nostro, che occuperà due puntate e che ruota intorno a un caso di successo, quello del consorzio Mussa Bassa Lodigiana, che è riuscito a dare vita a un parco di centrali mini idroelettriche in un territorio prevalentemente agricolo e pianeggiante. Parliamo di un'area di 75.000 ettari, 68 comuni, essenzialmente in pianura. Inizieremo stasera cercando di illustrare gli aspetti tecnologici, ambientali ed economici, per poi domani analizzare i colli di bottiglia che si incontrano in questo tipo di progetti. In linea con noi per parlarcene il direttore del consorzio, Ettore Fanfani. Buonasera Fanfani. Sì, buonasera a lei. Dunque Fanfani, inizierei cercando di inquadrare da un punto di vista tecnologico l'oggetto di cui stiamo parlando. Sì, in fatto di tecnologia possiamo dire che oggi, come oggi, abbiamo a disposizione tre grandi famiglie di macchine. Le Pelton, che sono delle macchine che in genere funzionano molto bene con grandi salti e portate molto modeste. Stiamo parlando di turbine, come si presentano più o meno? Ecco, se riusciamo a darvi un'idea. Le Pelton, diciamo che sono delle ruote che hanno in fondo all'apice dei grossi cucchiai su cui viene atomizzata in grande pressione l'acqua e la fa girare, cioè cede l'energia che riceve da un salto che arriva, supera anche i 100 metri, mm-hmm. Ci sono delle Pelton che hanno salti che superano abbondantemente i 100 metri. Poi ci sono le Francis, che sono delle macchine che invece si adattano, diciamo, a una via intermedia, salti sicuramente superiori ai 10-12 metri e portate però più consistenti, e quindi c'è la famiglia delle Kaplan, che sono invece macchine molto grosse che si adattano benissimo a salti modesti, anche dell'ordine di 3 metri, però con portate consistenti. E la nostra, nella fattispecie, la nostra esperienza per canali con salti così modesti come abbiamo visto noi, viene fatta proprio su quest'ultima famiglia delle Kaplan. Quindi no? Kaplan, ma per caso assomigliano alla, alla famosa vite di Archimede, quella che si utilizzava una volta? No, questa no, è un'altra roba ancora. Quella è un'altra roba ancora. Guardi, lei deve pensare a un'elica di un grande bastimento. E che però è orientata al contrario, chiaramente, certo. Perché l'elica del grande bastimento dà energia all'acqua per ricevere la spinta, mentre in questo caso la girante riceve energia dall'acqua per poi produrla al generatore che provoca energia elettrica. Intanto vabbè, stiamo parlando di canali irrigui, di che dimensioni e come si presenta la struttura così alla vista, perché c'è anche un problema di impatto ambientale. Sì, sì, c'è sicuramente un problema di impatto ambientale, perché lavori a impatto ambientale zero non esistono, cioè gli unici lavori a impatto ambientale zero sono quelli che non si fanno, ovviamente, certo. No? È evidente. Beh, qua si tratta, nel nostro caso, è un canale che è lungo 40 chilometri, che in alcuni punti tocca larghezza di 60 metri. Cavoli. E che ha portate iniziali di 112 metri cubi al secondo, sono 112.000 litri al secondo, un fiume. Neanche troppo piccolo. E nemmeno troppo piccolo, no? Perché io dico sempre, le condizioni affinché ci sia la possibilità di produrre energia idroelettrica sono due: una la quantità d'acqua e l'altra il salto. Certo. Quindi questa grande quantità d'acqua in alcuni punti determinati c'era la possibilità di disporre di salti dell'ordine di 3 metri, 3 metri e 50, su dei manufatti che sono ancora chiamate delle levate. Una cascatella, insomma. Esatto, una cascatella di 3 metri, 3 metri e 50. Noi proprio in prossimità, in corrispondenza all'inizio di questa cascatella, si provvede a realizzare uno sbarramento mobile, automatico, anzi addirittura con delle paratoie a ventola che si abbattono per far fronte ai momenti improvvisi di piena. Sì. E quindi l'acqua lì viene controllata, si fa un piccolo invaso modestissimo, tant'è che le nostre centrali sono tutte ad acqua fluente, quindi non c'è bacino di carico idrico come avviene per le dighe in non alta c'è una montagna. Diga, certo. Esatto. L'acqua viene fatta passare nella centrale idroelettrica, l'energia che l'acqua ha in questo salto la trasferisce a questa grossa girante che fa muovere il generatore e quindi produce forza elettromotrice che viene trasferita direttamente in rete. Quindi sono in, diciamo, diciamo, opere che non impattano molto, ma ci possono fare anche degli interventi per migliorare ulteriormente, confezionare un po' il regalo? Sì, sì, certo, sicuramente, anzi le devo dire, noi li abbiamo proprio fatti, perché innanzitutto abbiamo cercato di utilizzare quell'architettura il meno impattante possibile, quindi edifici il più bassi possibile, contenuti, poi diciamo le case che contengono le macchine sono state fatte con lo stile delle vecchie cascine lombarde che si ritrovano nell'intorno, e poi il tutto, ma anche per diversi chilometri, è stato riambientalizzato, quindi ripiantumazioni, attrezzature a verde, eccetera, e in alcuni casi, in due o tre casi, abbiamo costruito delle piste ciclopedonali che permettono di arrivare alla centrale, ovviamente senza poterci entrare, fare un giro attorno alla centrale e ritornare nel punto di partenza facendo una passeggiata anche di 4 o 5 chilometri in mezzo al verde. Insomma, avete infiocchettato per bene queste centrali. Senta, dobbiamo chiudere, mi deve rispondere con una battuta. Sono sostenibili economicamente questo tipo di opere? In quanto tempo rientrano? Sicuramente sono sostenibili, direi che possono rientrare in 4-5 anni dall'investimento. Grazie Fanfani. Noi grazie però a lei. Ci sentiamo domani perché dobbiamo raccontare la storia del consorzio. Grazie mille, di nuovo. Bene, insomma, avete già capito di che cosa parleremo domani, non mi resta che salutarvi e augurarvi buona serata.